In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Spessissimo di occuparci di personaggi straordinariamente grandi che hanno rappresentato qualcosa di speciale per l'umanità e ci siamo resi conto che chi è veramente grande di solito non lo è solo in un campo, non so, abbiamo parlato di Winston Churchill e l'abbiamo raccontato per quello che era, cioè uno degli uomini politici più influenti della intera storia, ma in realtà avremmo potuto parlare di lui anche per la sua grande attività come letterato, che peraltro gli era valso addirittura il premio Nobel. Solo in rari casi abbiamo talmente debordato che abbiamo dovuto dedicare due puntate, David Bowie, Gabriele D'Annunzio, ma capite che D'Annunzio, per la sua immensa importanza come poeta, come scrittore, come uomo d'azione, come eroe di guerra, come politico, non era raccontabile in un'ora. Eh sì, perché spesso i grandi sono poliedrici, non riescono a racchiudere la loro grandezza solo in un campo. Bene, il personaggio del quale vi parliamo oggi entra in pieno in questo discorso, in questa categoria, protagonista di un'epoca, simbolo di un'epoca. Lui ha influenzato con le sue azioni i contemporanei, continua a influenzare, come alcuni personaggi di cui abbiamo parlato spesso, gente che continua a influenzare le generazioni successive, e questo indipendentemente dal campo in cui hanno saputo eccellere. E sì, il nostro protagonista di oggi è stato uno dei più grandi, probabilmente il più grande pugile di tutti i tempi, però la sua figura è andata ben al di là delle sue performance sul ring, perché lui ha avuto personalità, ha avuto carisma, le sue scelte anticonvenzionali sono state una sfida contro il sistema, insomma lui è diventato un'icona mondiale, il simbolo di un intero popolo, di un'intera gente. Oggi noi ripercorriamo le gesta epiche di un eroe moderno che si era guadagnato un soprannome che dice tutto di lui: The Greatest, il più grande. Oggi noi raccontiamo Cassius Clay, anche se forse dovrei dirvi raccontiamo Muhammad Ali, perché questo era il nome che si era scelto dopo la sua conversione all'Islam. Alcuni dicono che sono presuntuoso, altri che avrei bisogno di un sacco di legnate, altri che parlo troppo, ma io sono sicuro di quello che dico e lo sapete che non posso stare zitto. Io sono il più grande, posso battere chiunque, sono giovane, sono bello, sono veloce, sono forte e nessuno mi può battere. Questa era una delle tante, delle tantissime dichiarazioni esagerate, folli, presuntuose, al limite della ragionevolezza, insomma Cassius Clay era così, parlava così, rilasciava dichiarazioni di questo genere ai giornalisti prima dei suoi incontri. Lui era diverso dai suoi rivali. In quell'epoca di solito i pugili facevano parlare i manager, non erano abili con le parole, non avevano molta dimestichezza con la comunicazione. Bene, lui cambiò le regole del gioco. La sua caratteristica principale era quella di essere l'eccesso opposto, era logorroico fuori dal ring, spesso anche dentro al ring. Aveva l'abitudine di apostrofare l'avversario con critiche, ingiurie, provocazioni, insomma lui annientava psicologicamente il suo avversario prima di distruggerlo poi, come quasi sempre accadeva, anche fisicamente. Cassius Marcellus Clay Jr. nasce il 17 gennaio 1942 a Louisville, nel Kentucky. Il padre, nativo americano di terza generazione, di origine malgascia, la madre Odessa, afroamericana. Insomma, lui cresce in quel contesto, un contesto di forte segregazione razziale, ne soffre molto, lo racconterà in più di un'occasione, episodi, uno in particolare: lui era entrato in un negozio per comprare una bottiglietta d'acqua ed era stato cacciato via per il colore della pelle. Nel 54 lui ha 12 anni, gli rubano la bicicletta, minacciano anche di picchiarlo. Lui ci mette a urlare, attira l'attenzione di un poliziotto, l'agente Joe Martin. I ladri intanto sono scappati. Allora questo poliziotto gli consiglia di imparare a fare a pugni e così un'altra volta saprà difendersi meglio. E lui, Cassius, si dimostra interessato. Allora l'agente lo accompagna alla palestra Columbia di Louisville e lui, lì, questo ragazzino dodicenne sa per la prima volta su un ring, e appena sale tutti capiscono di avere a che fare con un fenomeno. Ha un talento innato, il suo stile è quasi leggiadro. Sembra assurdo forse accostare questa parola a un pugile che combatterà nei pesi massimi con un'altezza di 1,91 m per oltre 100 kg, eppure è così. Lui è leggero, saltella come se non avesse peso, come se non facesse fatica, si muove in continuazione e destabilizza l'avversario perché gli gira attorno. È la sua tecnica, una tecnica straordinaria, unica, che gli farà coniare una delle famosissime frasi: leggero come una farfalla, pungo come un'ape. Proprio grazie alla sua tecnica unica, al suo fisico perfetto, già possente, lui debutta come dilettante quasi subito, a 12 anni, e comincia una carriera brillantissima. Vince 6 Kentucky Golden Gloves e 2 Golden Gloves nazionali a 18 anni nel 1960. È il miglior pugile dilettante dell'America, insomma andrà alle Olimpiadi di Roma. It's hard to beat a guy when he has his mind made up that he wants to win. So he was the roughest boy, but for the first two rounds I had a little trouble getting started. So the first two rounds I tired him out, but the third round he was mine. The speed, class and style of this precocious 18-year-old marked him as a star. He flew home a hero and typically went straight to Times Square in New York. Velocità, classe e stile di questo precoce pugile diciottenne lo trasformano in una star. Questo è quello che dice il telecronista olimpico. E infatti lui sbaraglia tutti gli avversari, anche se sono molto forti. KO, vittoria ai punti, insomma si porta a casa la medaglia d'oro. È un risultato straordinario che fa presagire un futuro degno di questo inizio sfolgorante. Lui per adesso sta gareggiando nei medio massimi perché è al di sotto degli 81 kg e in questa categoria ha collezionato 100 vittorie e 5 sconfitte da dilettante. E il 29 ottobre 1960 lui passa al professionismo e ai pesi massimi. Nel frattempo è cresciuto, ha messo su muscoli, insomma pesa oltre 90 kg. Tra il 60 e il 63 lui accumula un vero e proprio record: 19 incontri, 19 vittorie, 15 prima del limite. Insomma è un pugile straordinario con una velocità di mani, di piedi eccezionali, soprattutto in rapporto alla sua stazza. Quello che lo attende però è ben altro che una serie di incontri di pugilato vinti, perché il suo appuntamento con la storia sarà uno di quelli che faranno tremare il mondo. 1963, il campione del mondo dei pesi massimi si chiama Sonny Liston. È un pugile potente, aggressivo, peraltro è lo zio di B.B. King. Liston è soprannominato il grande orso cattivo, è considerato ancora oggi uno dei pugili più terribili di tutti i tempi. Peraltro è uno anche che è stato in odore di mafia. Siamo in un periodo nel quale gli incontri spesso sono truccati, le scommesse sono molto alte, girano tantissimi soldi, ci sono continue inchieste dell'FBI. Comunque Sonny Liston non si discute, è uno fortissimo, è lui l'uomo da battere, è il detentore del titolo. Arriva il momento per Cassius Clay di sfidarlo. E l'incontro viene organizzato per il 25 febbraio 64, Miami, Florida. E il campione è il super favorito, ha 32 anni, ma è ancora considerato nel pieno della sua carriera. Peraltro lui si comporta in maniera amichevole nei confronti del giovane sfidante. E Clay invece ha un atteggiamento diverso. Lui avvia una vera e propria campagna mediatica contro Liston, la caccia all'orso cattivo la chiama, si fa fotografare sul ring mentre combatte contro un avversario travestito da grizzly, poi organizza un pullman con enormi scritte contro Liston e lo posteggia sul prato della sua villa a Denver. E naturalmente durante le interviste nei giorni precedenti inveisce contro di lui, lo dà già battuto, insomma un'operazione di demolizione psicologica. È una caratteristica precisa sua, cioè lui porterà avanti questo modo di fare per tutta la sua spettacolare carriera. È un modo di fare che gli porterà bene. Tutto questo rumore in realtà non lo mette in buona luce, i giornalisti sportivi lo indicano come perdente, gli allibratori non gli danno molte chance, il match però ha un'evoluzione assolutamente imprevista. Trying to keep that cut close, do you feel as though Sonny being busted up a little bit, puffed up a little bit? Stopping it, that might be all, ladies and gentlemen, get up there Joe, get up there, get up in the ring. That's not in this one, and I just turned 22 years old. I must be the greatest. I told the world, I talk to God every day. If God's with me, can't nobody be against me. I must be the greatest, lo avete sentito, devo essere il più grande, dice Cassius Clay al termine di un incontro che lui inaspettatamente ha vinto. Ha dominato l'avversario, gli è saltato attorno, gli è saltabeccato attorno, mi verrebbe da dire, schivando i suoi pugni micidiali. E questo, malgrado episodi poco edificanti da parte dello staff di Liston, perché quando questi si accorgono che le cose si stanno mettendo male, arrivano, non so, a mettere del sale sui guantoni del campione, tanto che Clay a un certo punto dell'incontro accusa un forte bruciore agli occhi, ma non c'è niente da fare, il grosso orso viene battuto. Cassius Clay a 22 anni conquista il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. Il 26 febbraio 1964 Cassius Clay non solo si è trasformato nel nuovo campione del mondo, ma si è anche creato una nuova identità. Nei mesi precedenti si era avvicinato alla fede musulmana, adesso lui annuncia la sua conversione all'Islam. Cassius Clay è un nome da schiavo. Non l'ho scelto e non lo voglio. Io sono Muhammad Ali, un nome libero che significa amato da Dio. Voglio che le persone lo usino quando mi parlano. So cosa sto facendo, so dove sto andando. Non ho bisogno che qualcuno mi dica chi debba essere o cosa debba fare. Io sono libero di essere ciò che voglio. Cassius Clay aderisce alla Nation of Islam, il movimento islamico afroamericano che all'epoca era guidato dal mitico Malcolm X, e lui di Malcolm X è un grande ammiratore. Cambia il suo nome in Muhammad Ali, lo cambia proprio legalmente, e alcuni vedono in questa sua conversione una scelta di comodo dettata dalla volontà di sottrarsi all'ingerenza del crimine organizzato che gestiva gli incontri di pugilato. Per questione di fede, diciamo che gli islamici vengono considerati un po' immuni, no? Questa è una visione limitata, però in realtà questa è una scelta di vita molto profonda, una scelta di ribellione, una scelta che lui peraltro porterà avanti per sempre, parlando spesso dell'Islam come della religione della pace, della libertà. Erano anni, insomma, in cui l'Islam poteva essere questo, non era quello che, ahimè, non era il volto che ci sta mostrando adesso. E lui prende posizione contro ogni forma di violenza. Ancora anni dopo lui condannerà apertamente l'attentato, per esempio, delle Torri Gemelle. La sua scelta era quella della non violenza assoluta, naturalmente fuori dal ring. Insomma, Muhammad Ali, in nome dei suoi principi, sta per compiere uno dei più grandiosi colpi d'ala della storia, non solo la storia del pugilato e dello sport, dell'intera storia umana. 25 maggio 65 a Lewiston nel Maine c'è la rivincita, Sonny Liston contro Muhammad Ali. Da ora in poi dobbiamo chiamarlo così per rispetto delle sue scelte. Questo incontro passa alla storia come l'incontro del Phantom Punch, cioè il pugno fantasma, perché alla prima ripresa, dopo un minuto, il campione del mondo colpisce Liston alla tempia con un pugno apparentemente innocuo. Liston però cade al tappeto tramortito e non si rialza. Ali sembra stupito, incita Liston a rialzarsi, a riprendere il combattimento. C'è questa foto che passerà la storia, con Liston al tappeto, Ali che lo sovrasta. È una delle foto più famose dell'intera storia del pugilato. Sonny Liston non si riprende, perde, si parla subito di incontro truccato, di guadagni milionari di chi aveva scommesso sulla sua sconfitta. Anni dopo Muhammad Ali tornerà su questo argomento e sosterrà ancora una volta che l'incontro non era truccato. Se Sonny avesse voluto fingere un KO non l'avrebbe di certo fatto al primo round, dice lui. Cresce sempre di più attorno a Muhammad Ali la leggenda, un campione straordinario, ma anche un uomo che farà parlare sempre di sé qualunque cosa faccia. Dopo questo incontro lui difende il titolo altre 8 volte e poi accade quello che passerà alla storia come il grande rifiuto, un evento destinato a scuotere non solo il mondo della boxe, ma il mondo in generale, una presa di posizione coraggiosa, inaspettata, che catapulta lì in una sfera di notorietà ancora superiore. Già allora lui era una delle persone più famose del mondo, adesso diventa veramente uno dei più famosi di sempre, un simbolo peraltro per milioni di persone, uno spartiacque, e la scelta sarà proprio lo spartiacque anche della sua stessa vita. Fa una scelta dalla quale non si può più tornare indietro. You are happy. Lei è contento di aver gettato via probabilmente la più grande carriera sportiva dal dopoguerra per i suoi ideali. Non l'ho gettata via, non l'ho persa. Direi che ci ho rinunciato. Vede, anche i più grandi titoli sportivi non significano nulla se non puoi essere libero. Mi capisce? I ragazzi in Vietnam stanno gettando via le loro vite. Io non ho fatto questo. Io sono ancora vivo. Loro stanno morendo per liberare qualcuno che non conoscono. Perciò cosa diavolo è un titolo dei pesi massimi e un po' di dollari schifosi rispetto alla libertà della mia gente? Dunque siamo nel 67, in piena guerra del Vietnam, una guerra terribile che durerà dal 60 al 75. In quel momento ci sono 47.000 soldati statunitensi che sono impegnati al fronte e che non riescono a vincere, perché mentre radono al suolo ettari di foresta con il napalm, i Vietcong agiscono nell'ombra, gli americani perlustrano chilometri e chilometri di gallerie sotterranee e man mano che loro avanzano i Vietcong spariscono e poi ricompaiono appena se ne sono andati. E insomma è una guerra fatta in un territorio che gli americani non conoscono, e soprattutto una guerra nella quale i Vietcong hanno la forza di difendere le loro idee, per quanto terribili, ma insomma difendono se stessi, e gli altri sono andati lì senza capire perché ci sono. Insomma, questo è il senso della guerra americana, quasi sempre peraltro. La sintesi del generale Weyland dopo una delle più violente offensive scatenate dalle forze americane è emblematica e ci ricorda qualcosa. Abbiamo cercato di disperdere a cannonate uno stormo di farfalle, una sintesi perfetta di quello che succedeva lì. E Vietcong, visti come delle farfalle, è un'analogia con l'immagine che Muhammad Ali aveva dato di sé e del suo stile di combattimento. Float like a butterfly, sting like a bee, vola come una farfalla e pungi come un'ape. Beh, in questa situazione drammatica, in un momento storico terribile per l'America, chiamata a sacrificare i suoi giovani, e in cui peraltro chi si permette di essere contrario a quel conflitto, che era assurdo, chi si permette viene tacciato di essere anti-americano o addirittura comunista, e chi si rifiuta di servire la patria è considerato un vigliacco che non ha considerazione delle migliaia di fratelli che stanno rischiando la vita. Bene, in quella situazione così estrema lui diventa qualcosa di diverso, perché lui è, non si può dire che non sia coraggioso, no? È il simbolo per eccellenza della potenza fisica, è capace di distruggere a pugni qualsiasi nemico. Bene, il campione del mondo dei pesi massimi Muhammad Ali rifiuta pubblicamente di arruolarsi e di partire per il Vietnam. È un gesto terribile che cambierà la storia di quel conflitto. Le ripercussioni sono molto eclatanti, l'opinione pubblica è spiazzata, e questo non sarà la fine di una straordinaria carriera di pugile come sembra all'inizio, sarà la potenza di una trasformazione in una leggenda senza tempo. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Oggi siamo nel pieno della leggenda, perché stiamo ripercorrendo la vita di una delle figure più straordinarie dello sport e della storia umana di tutti i tempi. Il nostro protagonista di oggi è Muhammad Ali, nato Cassius Clay, uno dei più grandi pugili della storia, ma uno degli sportivi più influenti e direi ormai una delle personalità più forti del Novecento. E lui è più di un pugile, diventa simbolo di un intero popolo, perché nel 67, all'apice della sua carriera, quando è campione del mondo dei pesi massimi, lui rifiuta pubblicamente di combattere nella guerra del Vietnam. È stato dichiarato arruolabile, lui comunica che non intende partire, è un obiettore di coscienza, è contrario a tutte le guerre e più che mai a quella. Non ho nulla contro i Viet Cong, nessuno di loro mi ha mai chiamato negro. Non ho intenzione di fare 10.000 miglia per uccidere o bruciare delle persone solo perché il dominio degli schiavisti bianchi sulla gente di colore di tutto il mondo possa continuare. È il momento che questa diabolica ingiustizia cominci a finire. Non fa una grinza. Lui, Muhammad Ali, non ha mezze misure. Lui sta affermando delle cose che non possono piacere ai politici americani. Le sue dichiarazioni contro la guerra irritano i vertici militari e anche il presidente degli Stati Uniti, che è Lyndon Johnson, che ha ereditato la patata calda da John Fitzgerald Kennedy, che a sua volta l'aveva ereditato. Sto cerino che si sta consumando del Vietnam è un problema che nessuno sa come risolvere. Ali si mette contro tutti, viene arrestato, accusato di renitenza alla leva, viene privato del titolo di campione del mondo, privato della licenza per combattere sul ring. È una scelta straordinariamente coraggiosa la sua, sotto tutti i punti di vista. Lui ha 25 anni, è nell'età migliore per un pugile e non sa se potrà mai riprendere a combattere. La carriera di un pugile, insomma, non è eterna. Sa che perderà ingaggi milionari, perderà la stima di molti suoi fan. Pensate, insomma, un uomo di oggi, qualsiasi mestiere, pugile, cantante, attore, un uomo di oggi una scelta così non avrebbe mai il coraggio di farla. E in effetti lui subisce il linciaggio mediatico di una grossa fetta degli Stati Uniti che lo giudica un vigliacco. Ali ha disonorato il titolo e la bandiera americana. Ehi, credi di essere migliore di mio figlio che laggiù a rischiare la vita tutti i giorni? Spero che ti arruolino domani e poi ti fucilino subito. Vigliacco di un negro! Se avessi una bomba saresti già sistemato all'inferno! Bisogna cacciarlo dalla nostra terra! Riceve messaggi, lettere, telefonate di minaccia, però non tutti gli sono contrari. C'è un'altra America, un'altra opinione pubblica che vede nel suo gesto qualcosa di grandioso, e poi stanno arrivando a suo sostegno i Bob Dylan, i John Lennon. La sua battaglia nel frattempo lo ha reso un'icona della controcultura degli anni 60, un simbolo per il popolo nero, ma soprattutto per gli oppressi della terra e per i pacifisti della terra. Molti giovani cominciano a contestare l'intervento in Vietnam e Ali diventa un idolo. Il professor Nathan Hare, che è docente di sociologia alla Harvard University di Washington, lo invita a tenere una conferenza agli studenti. Sono in 4.000 a ascoltarlo e lui dice: ragazzi, vogliono obbligarmi a indossare un uniforme, vogliono mandarmi a gettare bombe ai vietnamiti, ma perché? I problemi li abbiamo qui, noi chiamati negri. A Louisville, dove sono nato, siamo trattati come cani e privati dei più banali diritti umani. Occupiamoci di questo. E tutto questo in quegli anni, in quello scenario, è una vera e propria rivoluzione. E le parole di Muhammad Ali echeggiano in tutta l'America, in tutto il mondo, e in molti cominciano a capire che quella guerra non è una guerra come l'hanno dipinta i politici. Insomma, iniziano a arrivargli delle telefonate di solidarietà a casa. Ne arriva una in particolare. Lei è Muhammad Ali? In persona. Le affermazioni che ha fatto sulla guerra in Vietnam sono state riportate correttamente dai giornali? Sì, però non capisco. Io sono un pugile. Perché a tutti interessa la mia opinione su questa guerra? Perché questa guerra è più barbara delle altre. E siccome intorno a un campione del ring si crea una specie di culto, ecco che la gente vuole sapere. Di solito i campioni rispondono banalità e seguono l'onda. Lei li ha spiazzati. Ma lei, scusi, chi è? Sono Bertrand Russell. Ali non sa chi sia Bertrand Russell, si informa, scopre che è considerato uno dei più grandi matematici e filosofi del secolo, gli manda una lettera di scuse per non averlo riconosciuto. Bertrand Russell gli risponde così: nei prossimi mesi il suo governo cercherà di danneggiarla in tutti i modi, ma io so che lei si rende conto di parlare a nome della sua gente e degli oppressi di tutto il mondo. Cercheranno di spezzarla, perché lei è il simbolo di una forza che non riescono a distruggere, cioè la rinnovata consapevolezza di un popolo deciso a non farsi più massacrare, degradare dalla paura e dall'oppressione. Lei ha il mio appoggio incondizionato. La previsione di Bertrand Russell si avvera in pieno. Al processo il pubblico ministero conduce la sua arringa dicendo al giudice che non si può lasciare libero Ali, perché se se la cava lui tutti i neri d'America diventeranno musulmani per passarla liscia. La corte stabilisce che le motivazioni religiose non sono sufficienti per giustificare un rifiuto all'arruolamento. Cassius Clay sui documenti è chiamato col suo nome americano, insomma verrà condannato a 5 anni di carcere e $10,000 di multa, e la UBA, l'associazione della box, dichiara immediatamente decaduto il suo titolo e ci sarà un torneo per arrivare a un nuovo campione. Muhammad Ali sportivamente è finito. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Inizia un periodo intenso e terribile per Ali. Ricorsi su ricorsi, avvocati che lavorano per lui e il governo astutamente arriva a proporgli un compromesso. Lui si arruola e gli viene assicurato che non verrà mandato in Vietnam, rimarrà in una base sul suolo americano, gli verrà restituito il titolo e la licenza per combattere. Se lo vogliono comprare, lui naturalmente non accetta e non potrebbe mai farlo, verrebbe meno a quello per cui lui ha lottato fino a quel momento. Lui non è che non vuole andare in Vietnam perché ha paura, lui non vuole andare in Vietnam perché vuole dimostrare quanto sia assurda quella guerra per tutto il mondo, particolarmente per la comunità nera. Ci vogliono più di 3 anni perché tutto abbia fine. Il 20 giugno 1970 la Corte Suprema degli Stati Uniti, con sentenza unanime, stabilisce che l'arruolamento può essere rifiutato per motivi religiosi, e nel frattempo il mondo sta cambiando, l'ho detto, Lennon, Dylan, ci sono tanti pensatori, perché una volta i cantanti erano pensatori, non come oggi, cambiano in qualche modo lo stato di cose. Il mondo si sta interrogando sull'assurdità di quella guerra, della guerra in Vietnam. Insomma, Muhammad Ali viene riabilitato, gli viene restituito il passaporto. È una vittoria personale, ma anche un evento sociale epocale che segnerà in maniera indelebile la storia del popolo nero, costruirà un precedente dal quale non si tornerà più indietro. Però a livello pugilistico tutto questo ha rappresentato qualcosa di devastante per la carriera di Ali. Lui è stato fermo 4 anni, ha perso milioni di dollari di ingaggi e ha perso gli anni migliori, dai 25 ai 28. Le carriere dei pugili, insomma, non durano in eterno. Lui però è Muhammad Ali, the greatest. Gli incontri che lo attendono segneranno la storia della box. In quel momento il campione del mondo dei pesi massimi è il mitico Joe Frazier. È un pugile solido, fortissimo. Lui lo sfida, lo incontra l'8 marzo del 71 a New York. Il match viene definito l'incontro del secolo, sfida violentissima. Alla fine Frazier ha la meglio ai punti, Muhammad Ali sembra accusare il colpo, non è riuscito a scalzare il campione in carica. Poi nel 73 appare quasi dal nulla un pugile micidiale, si chiama George Foreman, strappa il titolo a Frazier e sconfigge anche un altro grande peso massimo dell'epoca, Ken Mandingo Norton, un nero però di quelli più integrati. Insomma, l'uomo da battere per Ali adesso è Foreman, e come al solito lui dà vita a un vero e proprio show prima del match. Scenderò dal ring proprio come ci sono salito, dopo aver battuto quel mostro che nessuno ha mai sbattuto giù, come quando il giovane Cassius Clay di Louisville, Kentucky, aveva battuto Sonny Liston. Non sono più l'acerbo ragazzo di 22 anni che combatteva contro Liston. Ho più esperienza ora, sono un professionista. Mi hanno rotto la mandibola, sono stato sconfitto, mi hanno mandato al tappeto, so cosa fare. Ho abbattuto gli alberi per prepararmi a questo incontro. Ho fatto a botte con un alligatore. Sì, sì, ho proprio fatto a botte con un alligatore e ho lottato con una balena. Ho ammanettato i lampi e ho messo in galera i tuoni. Non male, eh? La scorsa settimana ho ucciso una roccia e ferito una pietra. Ho mandato all'ospedale un mattone. Vi farò vedere quanto sono grande! E l'incontro che verrà organizzato tra Muhammad Ali e George Foreman è considerato il match più famoso di tutti i tempi. Tante volte si è usata la dicitura match del secolo, ma in questo caso siamo proprio vicinissimi alla verità. Il match, peraltro, viene organizzato a Kinshasa, nello Zaire, e voluto dal presidente Mobutu Sese Seko, passerà alla storia col nome di Rumble in the Jungle, la rissa nella giungla. Ali domina il match grazie a una tattica sorprendente e del tutto inaspettata. Invece di ballare sul ring come faceva di solito, invece di schivare i colpi micidiali di Foreman, lui adotta una tecnica che prenderà il nome di rope dope, si potrebbe tradurre droga tra le corde, una tecnica nuova che lascia stupefatti perfino i suoi allenatori. In pratica rimane alle corde per tutto l'incontro, incassando i colpi di Foreman, facendolo sfogare fino allo sfinimento contro un bersaglio così elastico. È un'immagine che io ricordo, un'immagine della mia prima adolescenza, lui che scuote la testa prendendo tutti questi colpi, come a dire a tutto il mondo non mi fai niente, e alla fine tutto questo attenua la potenza dei colpi di Foreman. Ali non si stanca, alla fine vince lui, all'ottavo round mette al tappeto George Foreman. È un incontro mitico, peraltro c'è un bellissimo documentario film, Quando eravamo re, realizzato nel 96 da Leon Gast, che vincerà giustamente l'Oscar l'anno dopo come miglior documentario. Ma c'è ancora un grande incontro che attende Ali, è quello che lo vede combattere per la terza volta contro Joe Frazier, la bella, diciamo così, passerà la storia anche questo col nome di Thriller in Manila. Proudly present the Thriller in Manila. Introducing in the blue corner from Philadelphia, Pennsylvania, USA, the challenger and former heavyweight champion of the world, Joe Frazier. USA, the heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. Ali. È il 1 ottobre 1975, a Manila, appunto, Thriller in Manila viene vinto da Ali, KO tecnico al 14° round. È un nuovo risultato grandissimo. Questo peraltro è stato definito il match più brutale di tutti i tempi. E comunque dopo questo ennesimo mitico incontro, Ali disputerà ancora 22 combattimenti, alcuni belli, altri meno belli, altri forse un po' addomesticati. Insomma, lui arriva alla soglia dei 40 anni, nell'81 si ritira, come molti di voi sapranno. Poi nel 1984 gli viene diagnosticato il morbo di Parkinson, che lentamente lo porta a un declino fisico, e lui si impegna anche lì in una battaglia per aumentare la consapevolezza della gente riguardo a questa terribile malattia, e aiuta alla raccolta fondi per la ricerca. C'è un'immagine che io non dimenticherò mai: Atlanta 1996, cerimonia di apertura delle Olimpiadi, e Muhammad Ali, chiamato all'onore di accendere la fiaccola olimpica, lo fa sembra proprio con le ultime forze, perché la mano è molto tremante, e in qualche modo riesce a accendere quella fiaccola, e c'è tutto in quel filmato, andatevelo a vedere: c'è disperazione, dignità, voglia di riscatto, c'è tutto Muhammad Ali nel bene e nel male. Muhammad Ali muore il 3 giugno 2016 a 74 anni, circondato dalla sua famiglia, e lui peraltro ha avuto 4 mogli, 9 figli, tra i quali Laila Ali, alla quale abbiamo dedicato una nostra puntata, la pugile, che è diventata campionessa mondiale dei pesi supermedi. Dentro il ring e anche fuori dal ring non c'è niente di male a cadere, la cosa sbagliata è restare per terra, bisogna sempre fare di tutto per rialzarsi. Questo era il credo di Cassius Clay. Muhammad Ali, un uomo che ha saputo dare colpi micidiali sul ring, ma grandiosi colpi d'ala nella sua incredibile e straordinaria vita. Un uomo che è diventato simbolo di un popolo e simbolo di un'epoca precisa, quella che è girata negli Stati Uniti attorno a quella guerra assurda che fu la guerra in Vietnam. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, che hanno volato in alto, che hanno colpito come un'ape dopo aver volato come una farfalla. Questo e molto altro è stato Cassius Clay, anzi per meglio dire Muhammad Ali. Se volete mandare dei commenti segnalandoci vite su cui puntare i riflettori, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, scrivete al nostro sito, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.